Nella religione, parlando nei termini nostri, possiamo distinguere un'anima e un ego. Cosa vuol dire religione? È un termine non molto dissimile da yoga. Vuol dire legame. Religione uguale legame. Il problema è legame con che cosa? Allora, se la religione è animica, e quindi l'essenza della religione, il legame sarà con l'origine. Cioè qui con l'essenza, in altri termini, con chi veramente siamo. Se invece la religione è egoica, allora il legame è con i dogmi, con le credenze, che tutto sommato possono essere visti come superstizioni. Cioè, anziché venire dal divino, sono proiezioni umane, sono costruzioni di Dio a immagine e somiglianza dell'uomo e vengono esattamente dall'ego.